nel barrio le gritan salsiccia. Si sono su un cento di salto la figgia. La donna è più lanciante con un piedo. Salto la figgia, era che martello. Salto la figgia, era che martello. Tutto nel barrio le gritan salsiccia. Si sono su un cento di salto la figgia. La donna è più lanciante con un piedo. Salto la figgia, era che martello. Salto la figgia, era che martello. Nel barrio te gritan salchicha. Si sos un cheto te salto la ficha. La donde più lanciante con un piedo. Te salto la ficha, eras mi martello. Te salto la ficha, eras mi martello. Todo en el barrio te gritan salchicha. Si sos un cheto te salto la ficha. La donde più lanciante con un piedo. Te salto la ficha, eras mi martello. Te salto la ficha, eras mi martello. Bailando puchi puchi en la otra edad. Bailando puchi puchi.